è come quando a scuola venivamo sospesi. Io sono stato sospeso più di una volta per attività, così dice, non consono al regime scolastico. Anche Lauro subisce questa sospensione che penso non farà che mettere altro inchiostro nella sua penna così pungente. Quindi la cosa non fa che dimostrare quello che è già evidente da tempo, che l'informazione in Italia è una struttura gerarchizzata e appena si tira l'aeroplanino sbagliato la maestra ti butta fuori dall'aula. Ma penso che fuori dall'aula si stiano radunando un sacco di persone pronte a riprendere la parola e a mandare a casa questi epigoni veramente deprimenti. Arrivederci a tutti.